Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Anche i giocattoli possono fare male a chi li usa e a chi li produce. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Parliamo di giocattoli sicuri e prodotti in modo eticamente accettabile. Un tema sul quale ci sentiamo in dovere di richiamare l'attenzione in questo mese che precede il Natale, un periodo che per tradizione segna il picco nell'acquisto di giocattoli. Focus sui trend dedicato invece ai consumi raccontati, quando i prodotti, i brand, le aziende raccontano la loro storia. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Stop alle grandi scorte, caccia alle promozioni e ai prodotti no logo. Cambiano le abitudini di spesa delle famiglie alle prese con budget sempre più impicchiata. Secondo Federdistribuzione, negli ultimi 3 anni le vendite delle cosiddette marche private, i prodotti con il logo della catena distributiva, sono aumentate di quasi il 20%, anche se i prodotti di marca continuano ad occupare il 70% della spesa dei consumatori italiani contro il 40% dei colleghi europei. Walmart chiude la collaborazione con il fornitore Tazrin in Bangladesh. Dopo l'ennesimo incidente, un incendio in uno stabilimento tessile in cui sono morti 100 dipendenti, il colosso internazionale del retail ha disdetto il contratto di fornitura. Il tessile in Bangladesh rappresenta l'80% dell'export nazionale, soprattutto verso Stati Uniti ed Europa. Anche Zara, intanto, cede a Greenpeace e si impegna a eliminare le sostanze tossiche dei propri vestiti entro il 2020. Lo ha annunciato la stessa associazione ambientalista, ricordando come ciò sia avvenuto in seguito alla pressione dell'opinione pubblica scaturita dalla campagna internazionale Detox. Nuovo successo per Pubblicità Progresso. Grazie all'ultima campagna sociale Tu puoi dare la vita, le iscrizioni per la donazione degli organi attraverso il portale doniamo.org sono aumentate di quasi il 70%. Nel 2050, per mantenere l'attuale livello di consumi e di sprechi, servirà il cibo di 3 pianeti. L'allarme è emerso dal 4º forum internazionale promosso dal Barilla Center for Food and Nutrition. La borsa della spesa. Che vuoi fare di questi vecchi giocattoli? Non capisci? Siamo finiti, obsoleti, siamo in declino! Ragazzi, lo sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. Verremo buttati via? No, nessuno verrà buttato via. Non gioca mai nessuno con noi. Calma, non è il momento di essere isterici. È il momento perfetto per essere isterici. Dovremmo essere isterici? No! Sì. Forse, ma non adesso. Su, vediamo quanto ci quotano su eBay. Story insegna viva i vecchi giocattoli ed è proprio il ritorno ai grandi classici una delle tendenze più in evidenza nel settore che si avvicina al mese clou dell'anno. Il mercato in Italia vale 1 miliardo e 800 milioni di euro, ma solo il 25% dei giocattoli è made in Italy. Il restante 75% è di fabbricazione per lo più cinese. Non fanno mistero della loro produzione cinese big come giochi preziosi in compagnia di altri colossi come Lego, Mattel, Hasbro, ma ci sono anche gruppi che resistono tenacemente nel mantenere la produzione in Italia, come Quercetti, Clementoni, Villa, Peg Perego o la nuova Faro. Ogni anno le denunce per la presenza di giocattoli pericolosi sul mercato europeo sono tantissime. Nel 2011, pensate, sono state 324. Anche quest'anno Altro Consumo ha voluto testare la sicurezza di 20 tra i giocattoli più venduti, 4 dei quali, il 20% dunque, non hanno superato il test. In pratica dovrebbero essere ritirati. Non tutti i giocattoli sul mercato sono all'altezza del marchio CE che portano, ci dice Liliana Cantone di Altro Consumo. Nel 2011, di 1803 notifiche, il 21% riguardavano proprio i giocattoli, quindi 324 segnalazioni sul mercato europeo. E a oggi, il dato che diamo è riferito alla metà di ottobre 2012, siamo già a quota 280 denunce su prodotti quali giocattoli. Consideriamo poi la specificità di questo prodotto. 18, che rende tanto più odioso il fatto che non siano sicuri, è destinato per definizione ad un pubblico di utilizzatori, diciamo i bambini, che a volte utilizzano anche in modo improprio il prodotto stesso. Le ricerche delle ONG dimostrano che solo l'1-2% del prezzo che paghiamo per un giocattolo va alle fabbriche. Quando i lavoratori ci dicono che vogliono lavorare più ore, quello che intendono dire è che vogliono guadagnare di più. Il salario di base non è sufficiente per le loro spese, così si trovano costretti a fare molti straordinari. L'Associazione dei consumatori ha indagato anche l'aspetto etico della produzione di giocattoli, le condizioni di lavoro nelle fabbriche cinesi in cui vengono prodotti. Trovate il video, lo sentite in sottofondo, su altroconsumo.it insieme alle schede dei prodotti testati e sulla nostra pagina Facebook, perché oltre che sicuri, i giocattoli devono essere prodotti in modo eticamente accettabile. Di queste 10 multinazionali che abbiamo coinvolto nell'indagine sulla responsabilità sociale produzione, beh, la trasparenza diciamo zoppica, nel senso che solo 2 su 10 hanno aperto le proprie porte dei propri siti di produzione e fabbriche ai nostri esperti. Quindi abbiamo indicato, plaudendo questo atteggiamento, le 2 multinazionali che hanno aperto le loro porte, che sono Hasbro e Playmobil. Ovviamente molto rimane da fare, sia da un punto di vista della politica del rispetto dell'ambiente, ma anche i diritti dei lavoratori, anche l'attenzione, il monitoraggio nella filiera produttiva, quindi al momento in cui il fornitore porta le materie prime sino a quando il prodotto esce dagli stabilimenti. Ciascuno può fare la propria parte. Noi abbiamo messo a disposizione una lettera tipo dove in qualche modo il consumatore può sollecitare trasparenza e interesse di tutti. Il mercato è fatto di domanda offerta, la sicurezza dei prodotti deve essere una variabile certa in qualche modo. Ogni anno sono milioni i giocattoli insicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza. Ecco quali sono le regole da non dimenticare. Acquistate soltanto giocattoli con il marchio CE, che indica la conformità alle norme europee. Ulteriore garanzia è rappresentata dal marchio Giocattoli Sicuri dell'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli. Ma attenzione, i marchi possono essere facilmente contraffatti. Per questo motivo occorre prestare attenzione a tutta una serie di caratteristiche. I giocattoli alimentati a corrente, come i trenini, devono avere un trasformatore esterno, un salvavita a bassa tensione e un marchio di sicurezza IMQ. Controllate che le parti più piccole, occhi, naso e nastri dei pupazzi, per esempio, siano antistrappo. Le parti staccabili devono essere di dimensioni tali da non poter essere inalate o ingerite. No a bordi o punte taglienti. Gli ingranaggi devono essere protetti. Il vano pile chiuso con una vite o con un fermo difficilmente sbloccabile. Le istruzioni su montaggio e uso devono essere tradotte in italiano. E poi, occhio all'età. Un giocattolo sicuro per un bambino di 8 anni può essere pericoloso per il fratellino di 3. Non lasciate perciò i bambini da soli a scartare i regali di Natale. Il miglior consiglio resta quello di giocare con loro. Un fenomeno, quello della contraffazione, su cui invita a tenere alta la guardia anche Assogiocattoli, l'associazione che raggruppa le imprese del settore e che rassicura però i consumatori sui giocattoli in commercio. Sentiamo il direttore Paolo Taverna. La maggior parte dei giocattoli a livello mondiale viene prodotta in Cina, come la maggior parte dei prodotti, dei manufatti viene prodotta in Cina. Possiamo dire che il 75% dei giocattoli viene da fuori Italia e l'80% di questo 75% viene dalla Cina, come peraltro anche tutti i giocattoli delle multinazionali. Il problema non è dove si produce un giocattolo, ma come si produce un giocattolo. Ora, sia i produttori italiani che gli importatori devono rispettare delle normative molto molto severe in termini di progettazione, produzione e testing, tant'è che le grandi marche non fanno mistero di mettere un bel made in China o fabbricato in Cina sui loro prodotti, perché la loro stessa marca è garanzia di qualità, perché il prodotto, se non è contraffatto, e qui apriremo un'altra parentesi, il prodotto subisce dei test e delle prove prima di giungere sul mercato che sono assolutamente sicuri. C'era una volta, in una terra lontana lontana, un minuscolo regno, pacifico, prospero e ricco di antiche e poetiche tradizioni. Di nuovo in studio con Essere Avere. Quanto conta saper raccontare una storia? È quello che cercheremo di capire nel focus sui trend di questa settimana. Parliamo di consumi raccontati. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club. Ciao Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Sempre di più oggi prodotti e servizi si raccontano, si mettono in vetrina. Nel marketing si chiama storytelling ed è una strategia applicata al mondo dell'impresa e dei consumi, ma anche ad esempio a quello politico e delle istituzioni. Il racconto è una forma di comunicazione antica ma attualissima, trasversale ed efficace, anche e soprattutto nell'era della condivisione. Patrizia. Oggi si parla moltissimo di storytelling. Perché? Perché diminuisce l'efficacia della pubblicità che informa e comunica. Dunque è necessario coinvolgere di più, catturare l'attenzione, suscitare emozioni, essere memorabili in modo diverso. E i meccanismi narrativi dello storytelling, quelli del racconto classico con lo schema narrativo canonico, con l'eroe, l'aiutante, l'antagonista, eccetera, sono appunto molto efficaci. I brand ovviamente impersonano in genere i ruoli positivi. Pensiamo alla campagna di Procter & Gamble per le Olimpiadi di 2012, dove il brand nel ruolo di aiutante supporta le eroiche mamme nel loro duro lavoro quotidiano, cioè accudire i figli che poi sappiamo diventano campioni sportivi grazie appunto a tutti i marchi e prodotti di questo brand. Quando ascoltiamo una storia rispetto a quando ascoltiamo altri tipi di informazioni anche commerciali, ci emozioniamo, stiamo attenti, ci identifichiamo, addirittura entriamo nella storia con quella che gli esperti definiscono trans experience, cioè quella specie di ipnosi che ben vediamo sulle facce dei bambini, bocca aperta, occhi spalancati quando ascoltano una fiaba. Ottenere questo stesso effetto con le narrazioni di marca o di prodotto non è così facile, naturalmente, perché non tutte le storie sortiscono un effetto di fascinazione, ma certo, con le storie giuste, ben costruite, con i meccanismi narrativi ben combinati, il coinvolgimento può essere molto potente. Per far capire la potenza delle storie e del loro valore anche economico, lo sottolineo, quindi anche misurabile, vi racconto il caso di Significant Objects, il sito .com, un esperimento del 2009 per capire proprio come cambia il valore di oggetti di uso quotidiano quando vengono arricchiti da una storia. Ecco il caso: 100 oggettini da non più di $2 sono stati acquistati in negozi dell'usato e mercatini, per esempio una sorpresina Kinder, un vasetto di maionese Hellmann's, la palla di vetro con il paesaggio dello Utah, la neve dentro, e 100 scrittori, alcuni molto noti come William Gibson e altri del giro di McSweeney's, hanno creato una storia per ciascuno di loro. Il risultato sono 100 storie dai toni e dagli stili molto diversi, evidentemente, ma tutte tecnicamente e letterariamente significative. Bene, questi oggetti senza particolare valore, con la loro nuova storia dichiaratamente finzionale, sono stati messi in vendita con la modalità asta su eBay. Risultato: il prezzo medio d'acquisto dei prodotti in partenza era di $1.29, mentre il prezzo medio a cui sono stati venduti è di $36.12, dunque un incremento di valore del 2.800%. I soldi ricavati sono stati dati in beneficenza e tutta l'operazione oggi è raccontata sul sito e sono stati anche pubblicati 2 libri. Dunque oggetti che da banali diventano significativi anche economicamente e unici grazie unicamente alle storie. Un caso esemplare di corporate storytelling: Coca-Cola, che trasforma il suo sito in un magazine digitale. Dunque passano in secondo piano i comunicati stampa, le news aziendali, le offerte commerciali, e adesso in vetrina ci sono le storie, i video, i blog, che appunto hanno questa maggiore capacità di coinvolgere i consumatori, le associazioni, i partner, i testimonial. Questo caso è segnalato sul sito storyfactory.it, società di consulenza italiana che aiuta le aziende proprio a raccontarsi con le storie giuste, supportandone poi la diffusione sui diversi canali. Un'operazione culturale e sofisticata, oltre che di marketing narrativo. Oggi che i mercati sono conversazioni, come sappiamo, raccontarsi diventa strategico e incide direttamente sul business. Uno dei fondatori, Andrea Fontana, è autore anche del libro Story Selling, vendere storie, storie che fanno vendere e la narrazione come tecnica di vendita. Marketing a parte, lo storytelling, il racconto orale, l'arte di raccontare storie è prima di tutto l'espressione culturale di un territorio. Una tradizione, quella dei cantastorie, che torna in auge nei teatri, nei caffè, nei festival, come il Festival Internazionale di Storytelling che quest'anno a settembre ha fatto tappa a Bolzano, dove per 3 giorni cantastorie provenienti da tutto il mondo hanno animato le vie della città con le loro narrazioni. Che stai a fare? Per contro Fias. Che stai facendo? Mi chiese il bambino. Io sto a contare storie. Racconto storie. Ma perché? Se ninguém sta a ouvir. Perché? Se nessuno ti ascolta. Então, perturbato por aquela pergunta, o homem olhou para dentro di sé. Turbato da quella domanda, l'uomo guardò dentro di sé. E finalmente respondeu. E poi rispose. Al principio, io contavo storie per mudare il mondo. All'inizio raccontavo storie per cambiare il mondo. Agora conto storie per che il mondo non mude a me. Ora racconto storie perché il mondo non cambi in me. Patrizia, oggi le storie fanno vendere, come si diceva poco fa, anche perché c'è un mezzo di diffusione eccezionale, la rete, i social network, la nuova piazza dei cantastorie, possiamo dire, che fa diventare virale il racconto, è così? Sì, questo è un altro motivo per cui lo storytelling oggi è molto potente. Siamo nell'era della condivisione, della co-creazione anche delle storie. Dunque le parole chiave sono multicanalità e passaparola. Oggi l'identità dei brand si frammenta su molteplici media tradizionali e nuovi: internet, social network, televisione, punti di vendita, ma anche packaging, eventi, eccetera. E i consumatori si possono incontrare ovunque, dunque aumentano numericamente i touch point tra brand e consumatori. Il consumatore vuole sapere tutto, anche molto al di là delle informazioni specifiche tecniche, ed ecco l'idea per esempio di Lego, che non a caso racconta il prequel della storia del brand, cioè la fondazione del mito, realizzando un corto di animazione in stile Pixar sulla storia del fondatore. È un commovente e convenzionale viaggio dell'eroe che ce la fa tra mille difficoltà, credendo però fortemente nella propria idea. Anche Tiffany ricostruisce la storia del proprio brand e dei prodotti andando indietro nel tempo fino alle origini. Ma come lo fa? Usando la timeline di Facebook, che come noto da bacheca è diventata un diario che consente appunto di raccontarsi su una linea temporale. Bene, Tiffany sceglie questa forma per il suo storytelling transmediale e così si può vederne la storia fin dall'anno 1837. Ma anche le informazioni tecniche sui prodotti, la filiera produttiva, la provenienza possono essere fornite, comunicate o contestualizzate all'interno di nuove narrazioni o essere anche integrati a contenuti aggiuntivi con cui il consumatore addirittura gioca. Caso interessante, John West Food UK, che dallo spot al packaging al web grazie a un sito interattivo informa il suo consumatore sulla provenienza dei suoi prodotti, ingaggiandolo anche dopo l'acquisto. John West produce salmone e tonno in scatola, ispirato alla dimensione partecipativa. Il sito web consente di inserire il codice che si trova sul packaging, sulle scatolette, per scoprire da dove viene il tonno, da dove viene il salmone, da quale mare precisamente e come è stato pescato. Sulla scia di questo interesse di chi ha mangiato quel tonno e vuole ricostruirne la strada fino alla sua tavola, in tonalità ironica, John West apre le porte anche del peschereccio. Dunque si può scoprire la storia dei singoli oggetti ritrovati in mare durante la pesca, ognuno con storie divertentissime, oggetti presenti nella cabina del vecchio capitano Sam che ce le racconta in video. Nel rimando narrativo tra canali tradizionali e new mediali, da segnalare a proposito di storytelling anche il caso Grom, che oltre al sito si comunica con un libro cartaceo per raccontare la storia dei fondatori. Segue il filone della personificazione del racconto aziendale, lo fa recuperando un canale poco considerato dalle aziende, cioè un libro. Ancora, la nuova campagna di Axe per il lancio della fragranza al femminile si chiama Axe Anarchy e coinvolge attivamente i consumatori nella creazione collettiva della narrazione di marca, che sul web diventa un graphic novel, cioè un romanzo a fumetti con i personaggi ispirati alle persone che partecipano, creando via via le puntate della storia. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo a Londra sui consumi raccontati? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. History Tag è un sistema che permette di tracciare la storia di oggetti e prodotti con l'idea che chi li acquista possa sapere come e da chi sono stati realizzati, come hanno vissuto fino al momento dell'acquisto e possa contribuire a raccontarle un pezzo di vita. Si tratta di una sorta di codice segreto che può essere applicato a qualsiasi tipologia di prodotto e che sarà visibile solo al legittimo proprietario. Digitando questo codice all'interno del sito historytag.com si accede a tutte le informazioni che riguardano quel prodotto. E scegliendo un apposito hashtag identificativo si può continuare a implementarne la storia attraverso i social network Twitter e Flickr, quindi con testi e immagini. In questo modo i nostri oggetti del cuore, che siano un libro, un paio di scarpe, una macchina fotografica, un jeans, racconteranno la loro storia e ne conserveranno la memoria. Le merci sono molto più che se stesse, questo ormai lo sappiamo, sono emozioni, sogni, ricordi. History Tag dà voce, rende visibile questo sovraccarico emozionale che rappresenta il grosso del loro valore e la loro unicità. Grazie Alessia. Patrizia, quanto conterà ancora il racconto nella società futura, una società in cui sarà protagonista? Ne abbiamo appena avuto un esempio, l'internet delle cose, un mondo fisico in cui gli oggetti interagiscono fra loro on e offline. Il racconto conterà molto e sempre di più. Le trame narrative saranno sempre più collettive e co-create da più soggetti. Per i brand si tratterà di gestire in progress l'evoluzione di queste trame, il cui controllo evidentemente non sarà più solo nelle loro mani. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook, troverete link e video di quanto vi abbiamo appunto raccontato, troverete questa come le altre puntate di Essere Avere scaricabili anche dal nostro sito radio24.it, sezione podcast. Tutto questo in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.